Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Una ce la siamo già giocata, ma nuove sfide ci attendono. La stagione è propizia, siamo in autunno e come scrive Giulia Zonca sulla Stampa, in autunno c'è il cambio dell'armadio, l'inizio della scuola e la 42 chilometri, un numero che per tutti è diventato sinonimo di maratona. D'oro di questi giochi olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici è italiana, va a Stefano Baldini. 42, che poi sono anche un po' un pezzetto in più. Sì, e 195. Vede che eccolo qua, il nostro dottor Melegatti, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Sì, 42 è un pezzetto. È un pezzettino, buongiorno Nicoletta. La maratona è una corsa che è diventata estremamente di moda e tantissimi sono spinti a farla con grande entusiasmo. Questo ci piace molto, è un fatto positivo perché correre fa davvero bene al corpo, alla mente, eccetera, ma ci sono... C'è un ma, tutti pazzi per la maratona, però la maratona è una cosa seria. La maratona non è come fare jogging, quindi la prima differenziazione è tra le persone che fanno jogging e le persone che corrono, e i runner. La maratona è per i runner, o meglio, è anche per chi inizia e per chi vuole spingersi oltre e quindi passare dalle 2-3 volte alla settimana la mezz'ora di corsa a correre ben di più e quindi a preparare la maratona. Ma la maratona, come dicevo, è una cosa seria perché ha dei risvolti che possono essere anche non piacevoli, può provocare problemi, come vedremo, e quindi va affrontata in modo molto, direi, scientifico. Sì. E soprattutto con una grande attenzione, e bisogna programmarla. 800 24 00 24. Potete naturalmente chiamare il nostro numero verde, scriverci al 349 238 6666, ma come sempre vi devo ricordare, se no Laura Vanossi. Allora, che siamo su Facebook, su Twitter, potete come sempre anche solo usare un'email e soprattutto scaricateci. Tra l'altro, sulla pagina di Facebook, vi ricordo, se anche oggi il vostro livello di stress è, insomma, andante sul livello abbastanza alto, voi non dovete fare altro che andare sulla nostra pagina di Facebook e scaricare degli esercizi molto semplici che ci sono suggeriti dalla nostra esperta, che utilizzando solamente le dita riuscirà a farvi tenere un po' sotto controllo lo stress con dei massaggi molto semplici. Ma noi ritorniamo di corsa alla corsa. Noi abbiamo compilato una scheda, ma il nostro speaker l'ha letta di corsa e ha saltato qualche dato. Noi eravamo come sempre di corsa e non abbiamo potuto rifarla. Allora aiutatemi voi a recuperare i dettagli mancanti. Ve la faccio ascoltare. Voi potete chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. Potete anche scriverci sul nostro profilo Facebook. Oggi dalla libreria di Essere Benessere spunta Voglio Correre, allenamento e alimentazione, come diventare più veloci, più resistenti, più magri, di Enrico Arcelli, Sperling, editore. Andiamo con la scheda mancante. Il mito vuole che la prima maratona sia stata corsa nel 490 a.C. dal soldato per annunciare agli ateniesi la vittoria sui persiani di Ciro. In assoluto, la prima maratona è stata corsa ad... nel 1896. La prima maratona olimpica aperta alle donne è stata quella di... nel 1984. È stata vinta dall'americana... 800 24 00 24. Siamo nati per correre, dottor Melegatti, ma alcuni sono fatti per correre più di altri. Come a dire che anche il fisico aiuta? Certamente c'è una predisposizione alla corsa. In effetti il nostro organismo è un organismo predisposto alla corsa, sì, in generale, però ci sono persone più flessibili, più magre, più veloci, più agili, in confronto ad altre persone che sono lontane dal poter praticare la corsa in modo ad esempio, che il fisico dove

al runner in ascolto che oggi, allenandosi, ha sentito una spina nella pianta del piede, controlli le calze, ma se tutto è a posto, certo. Ecco, si ferma, mette il ghiaccio. Mette la borsa del ghiaccio e poi, se la cosa persiste, consulti uno specialista. Assolutamente. Abbiamo Nicola dalla provincia di Verona ed Erika da Lodi. Buongiorno a voi, ma io voglio salutare il mio amico Marco Marchei, direttore della rivista Runner World. Buongiorno Marco, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno dottore. Buongiorno. Allora Marco, tu sei il grande giudice, quindi sentiamo Nicola dalla provincia di Verona. Nicola, pronto? Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. Eccoci. Ha completato la nostra scheda? Sì, ho la risposta. Ok, allora, qual era il nome del soldato? Filippide. Qual era in assoluto la prima maratona? Dovrebbe essere Atene. E qual è la prima maratona aperta alle donne e dove è stata corsa? Los Angeles. Ed è stata vinta? Questo non lo so. Annaggia. Erika da Lodi, buongiorno. Qual era il nome del soldato? Filippide. Qual è la prima maratona? Dove è stata corsa la prima maratona? A Londra. No, a Parigi. Marco? Non ci siamo. A non Parigi nel 24. Olimpionica, Marco? Dichiarato olimpionica. Che dici Marco? La prima maratona? No. Vi ho perso per un attimo, devo dare le risposte. No, devi solo dire se sono giuste o sbagliate. No, sono sbagliate. Nicola ed Erika rimandati, 800 24 00 24. Marco, tra l'altro tu hai corso, e che corse? Sì, anche ho corso anche un paio di olimpiadi, ora non poi aspetto a dire quali, perché sennò perché potrei in qualche maniera aiutare gli ascoltatori. Sì, diciamo che da maratoneta mi sono un po' spaventato dopo aver sentito il dottore, in verità, ma poi ognuno, dottore, non me ne voglia, ognuno tira acqua al suo mulino. Lei spinge per la sua passione, che è il ciclismo, io un po' più per la corsa, e mi verrebbe da dire: perché in bicicletta e non nuotare, allora? Ma no, in realtà non spingo per la bicicletta, io equidistante. Anzi, diceva il dottor Melegatti che è uno sport che costa poco, che si può praticare ovunque, richiede. Ascoltavo, era solo ovviamente una battuta. Credo che in tutte le specialità, poi il vero attrezzo, se così si può dire, che serve, sia il buon senso. Certo, sono d'accordo. Sappiamo che, e abbiamo aperto proprio con Tito e Togni, ricordando che le donne si stanno appassionando alla corsa, ci sono le maratone, sono sempre più rosa, ma siamo entrati in un mese che è rosa per definizione. In linea con noi la dottoressa Maria Giovanna Luini, benvenuta e bentornata. Grazie mille. Un mese, quello di ottobre, in cui le donne sono invitate a fare controlli. Sì, a correre, a controllarsi, sì. Intanto correre è già di per sé una prevenzione, lo sappiamo, lo state raccontando. Ottobre è rosa perché riguarda le donne, riguarda la loro capacità di prendersi cura di se stesse, quindi senza concentrarsi necessariamente su una malattia o l'altra, parliamo di salute. La salute della donna è l'oggetto e il soggetto di Ottobre Rosa, quindi invito le donne a guardare il proprio corpo e ad ascoltare quei consigli che sono più importanti per fascia di età, per situazione particolare, insomma ciascuna di noi sa cosa deve fare. Grazie alla dottoressa Luini, possiamo dire continuate a seguire Essere Benessere sul nostro profilo Facebook, sulla pagina mettiamo sempre gli appuntamenti importanti. Marco, dalla regia mi dicono che sono arrivate numerose telefonate dei nostri ascoltatori, ma sembra che nessuno dei nostri ascoltatori, mi è caduta l'acqua, nessuno dei nostri ascoltatori è riuscito a dare la risposta esatta che invece Marco svelerai tu a questo punto. Ma vado? Vai. Allora, per quanto riguarda Filippide, ci siamo. Sì. Non solo è storia, ma ogni volta che si parla di maratona non si parla d'altro che di Filippide. Noi maratoneti avremmo gradito una soluzione un po' diversa, un epilogo diverso, e cioè con un Filippide magari all'ospedale che poi in perfetta forma subito dopo. Invece, insomma, c'è stato l'evento luttuoso. La prima maratona dell'era moderna, olimpica dell'era moderna, è stata corsa sì ad Atene nel 1896, 86, la prima aperta alle donne è stata quella di Los Angeles 84. Ecco, quello che non volevo dire prima è che io c'ero a quell'Olimpiade, io c'ero, anche se non ho assistito in diretta alla maratona femminile, però ho corso quella, poi ho partecipato a quella maschile, e la vincitrice è stata l'americana Joan Benoit. Molti alla francese Benoit, lei è di origine, sì, diciamo la sua famiglia era di origine francese, ma lei è americanissima, oggi 55enne, uno scricciolo che però in una maratona caldissima e decisamente problematica nell'84 stroncò la concorrenza facendo scatenare il tifo degli americani che erano tutti sulla strada di Los Angeles. Quindi raccontata direttamente da Marco Marchei, che può dire io c'ero e me la sono cavata anche molto bene. Me la sono cavata abbastanza bene, in verità preferisco non citare, non raccontare del piazzamento, che non è stato uno dei miei migliori. Ci tenevo magari, Nicoletta, a dire questa: la cosa curiosa è, due anni fa ad Atene, nel 2010, è stata corsa una maratona tutta speciale, proprio da maratona ad Atene, in ricordo dei, perché due anni fa, nel 2010, c'era un anniversario importante, che erano i 2500 anni della battaglia di Maratona. Voilà, un'altra indicazione. Grazie a Marco Marchei, direttore della rivista Runner World, al dottor Gianluca Melegatti, Matteo Comes in regia, Laura Vanossi in redazione. A domani.